amato mio, il mio ragazzo cerca un posto, cerca una casa e cerca invano, sta ancora con i genitori, la notte dorme su un divano, gli dico sempre amore mio, se vuoi sposarmi dovrei aspettare ancora una decina d'anni. Segnando